fossi io. Viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina quaresimale devo sommessamente chiedere una grande cortesia al pubblico che mi ascolta tanto tempo. Non è un ricatto, ma è una piccola richiesta di compensazione rispetto a tutte le volte che mi sono profondamente spremuto le meningi per trovare simpatiche argomentazioni per intrattenervi quest'oretta la mattina. Oggi dovrete farlo voi. Oggi è una richiesta ben precisa da farvi. Fate attenzione, ascoltate, sarà facile anche per voi esaudirla. Avevo anticipato che per me il martedì grasso avrebbe avuto un grande senso. Infatti l'ho avuto, praticamente anticipato la quaresima di mezza giornata. Ho avuto un tristerrimo martedì grasso, sepolto dalla pioggia torrenziale e battente. Sono tornato a casa intirizzito e raffreddato. Ho iniziato a guardare la televisione nell'intento di parlarvi oggi del Festival di Sanremo. Mi colse deliquio e malore, forse dovuto a... No, non posso dirlo, sennò dopo dovrei fare come Morgan magari e sarei espulso a Radio 24, ma comunque a qualcosa che si beve tranquillamente e si vende dal vinaio sotto casa mia, e quindi non è nulla di proibito. Beh, a un certo punto entrai in una dimensione parallela rispetto al mio tiepido salottino e quindi con poca attenzione vidi il Festival di Sanremo. Beh, questa mattina vorrei che voi me lo raccontaste. Io posso dirvi qualcosa, quello che ho visto, quasi dei baluginì, quasi dei momenti di lucidità nella sorta di catalessi costante che mi ha portato fino a coprirmi questa mattina il capo di cenere, dicendo a me stesso no, non lo farò mai più, non lo farò mai più, e sperando di farlo prima possibile. Quindi io posso dirvi di Sanremo quelli che secondo me sono stati i punti che equivalgono a quelle belle flebo di formalina che si fanno in un cadavere per farlo sembrare qualcosa di decente per la rassegna dei parenti afflitti, quando passano davanti, baciano la manina, fanno la lacrimuccia, poi se ne vanno tutti contenti a cantare, ballare e mangiare alla fine del funerale. Ecco, posso dirvi questo: cosa c'è stato in mezzo in questa esposizione cadaverica dal Teatro Ariston? Dovrete dirmelo voi. 800240024, vi prego, vi scongiuro, anzi vi sarò molto grato, veramente infinitamente grato, profondamente e personalmente grato se mi aiuterete a ricostruire la notte di Sanremo. 800240024. Pare che questa sera Antonella Clerici farà un minuto e mezzo di silenzio per Bigazzi. Ma è quello della prova del cuoco? Esatto. Ammazza, ma pure Bigazzi, eh? Ma che è tutti morti per lei? No, ma no, sta benissimo. È che l'hanno mandato via dalla prova del cuoco perché dice che si mangiava il gatto, hai capito? Allora lei che ha fatto la prova del cuoco fa un minuto e mezzo di silenzio questa sera. Ma perché un minuto e mezzo? Un minuto per Bigazzi, 30 secondi al gatto, gli volemo da, poraccio, che pure lui c'ha... un po' d'umanità, santo cielo! Oh. La prima poderosa flebo di formalina me la sono vista. Stavo infilandomi le pantofole, stavo coprendomi con delle babbucce felpate, stavo indossando la mia antica giacca da camera con il foulard. Immaginate che io a casa stia così, non è vero niente, però è bello. Ho acceso il caminetto e ho messo un ceppo di legno di fronte al caminetto e come il vecchio protagonista del racconto di Natale Dickens mi sono messo davanti al televisore e vidi la prima flebo di formalina, che era il duo Bonolis Laurenti che si presenta a Sanremo, perché fa sempre bene all'inizio dare questa prima bottarella, questa scossetta, un po' come la scossa del fulmine che anima il pupazzo del dottor Frankenstein. È una coppia che funziona, insomma, mantengono quel grado di erezione dell'ascolto sufficiente per permettere un rapporto soddisfacente con il pubblico. A me toccano un punto che avevo pregato Fabrizio Intonti di non mettere, però con pervicacia degna di miglior causa me l'ha messo. Hanno toccato una delle più dolorose vicende della televisione italiana degli ultimi anni, lo sconsiderato, scellerato, riprovevole e da cui bisogna assolutamente prendere distanze, gesto del conduttore della prova del cuoco Bigazzi, che osò dire in una trasmissione che in alcune latitudini d'Italia, in certe epoche remote e lontane, e quando assatanati dalla guerra, dalla fame e dal desiderio di mangiarsi i figli, qualcuno affondava le zanne feroci, improbe e senz'altro detestabili nella tenera carnicina dei gatti. Detto questo, naturalmente è successo un cataclismo, un terremoto che ha anche lambito miei cari colleghi da vicino, anche me stesso. Ieri qualcuno mandava circolare dicendo, anche Nicoletti ha detto un giorno, siccome i cinghiali hanno le zanne che mi spaventano, ammazzate i cinghiali. Ora, io potrò anche aver detto questa frase. Potrò aver raccontato un episodio della mia vita in cui mi trovai sul far dell'imbrunire in una foresta abruzzese, tenendo per le mani i miei due bambinelli, ancora molto teneri, e la mia giovine sposa, mi sentii sgrufugliare un cinghialone nero a pochi centimetri dalla mia faccia. Vedendo queste due zannone che lambivano le gole tenere dei miei bambini, pensai, avessi un bel fucilone a lupara doppia, glielo sparerei, anche perché poi dopo le salsiccette, lo spezzatino, le pappardelle, piacevano anche ai bambini e stanno lì tutti contenti, papà, papà, dacci il cinghialetto. Ma fino a prova contraria, ciò non risponde a un reato, ammesso che avessi regolare licenza di caccia e mi trovassi in regolare luogo in cui è permesso l'abbattimento di cinghiali. Però di tutto si fa un grande calderone, quindi ieri qualcuno doveva leggere questa serie di circolari, me l'hanno anche mandata a me, Nicoletti, mi ha scritto un'ascoltatrice a cui voglio molto bene. La prego, mi aiuti a smentire questa infamia che dicono di lei. Che avrei mai detto? Che lei vorrebbe ammazzare un cinghiale? Dico, no, non lo vorrei ammazzare. Dico, il cinghiale insalmì mi fa impazzire, instufato e bellissimo. Fino a prova contraria, se qualcuno ammazza i cinghiali, non è che inverso lacrime per i cinghiali, anche perché so che attraversano veloci le strade. Beh, chiusa questa parentesi, visto che mi fanno segno di tagliare, ritorniamo a Bonolis Laurenti. Non a caso hanno tirato fuori questa vicenda, perché guardate, nel bisogno di formaldeide nel cadavere di Sanremo, l'aver suscitato, fomentato e coltivato il caso Bigazzi in prossimità e contiguità della conduzione di Antonella Clerici, sua partner per anni nella Prova del Cuoco, significa comunque aver dato una bottarella vitalità anche al Festival di Sanremo. Mario, buongiorno. Mario, le sono grato. Sono grato per la mano che mi sta dando. Ma guardi, sono grato a lei per lo spazio che mi dedica. E il Festival di Sanremo io l'ho riassunto subito in tre quarti d'ora, l'ho guardato solo per poi poterlo commentare, perché immaginavo che se ne sarebbe parlato nella sua trasmissione. Però ha perso il meglio, che è andato verso mezzanotte. Io un attimo ho alzato le palpebre stanche, ho visto qualcosa e poi dirò che forse valeva la pena. Allora me lo racconterai, starò in linea ad ascoltare, ma comunque non so quanta gente arrivi fino a quell'orario lì, ma no, da adesso, già da anni. Ad ogni modo, il festival è cominciato circa alle 9.05, 9.08 come avevano previsto. Dopo la pantomima dei comici che già avevamo avuto l'anno scorso come conduttori, alle 9.35 credo sia andata in onda la prima canzone del Festival di Sanremo, dopodiché finita la prima canzone c'era già la pubblicità, cioè aberrante proprio una cosa, è diventato un posto dove si va a parlare di tutto, da Bigazzi a Morgan, poi tristissima quella lettura della canzone di Morgan da parte della Clerici, ci sembrava quasi... Lei l'ha seguita quella lettura? Però non mi ricordo neanche il testo, allora, della canzone. No, resti in ascolto, no, è meraviglioso. Allora, introduciamolo, non si può dire oggi. Diciamo, l'argomento, diciamo esattamente cosa è successo. Allora, Morgan è stata la iniezione preventiva di formalina. Quando il cadavere ancora era moribondo, si è fatta una botta di formalina su Sanremo perché se ne parlasse, perché la gente seguisse comunque la sua agonia fino alla sua dipartita, alla sua gloriosa inumazione. Morgan, lo sapete, il pentito strafattone che disse mi faccio di droga come d'aspirina, me ne sparo tanta come se mi sparassi vitamine, poi immediatamente ha fatto un grande piagnisteo, è stata una settimana passando in tutti i salottini televisivi in cui tutti sentivano buoni, perché erano davanti a loro il mostro, il cattivo, il drogato, quindi tutti potevano essere dei grandi chierichetti. Finito questo rimaneva il grande dubbio, ci sarà o non ci sarà, dopo tutta questa botta di Morgan drogato e pentito, ci aspettavamo una sorta di comunità di recupero con Don Mazzi molto presente a Sanremo. La Clerici in un TG1 di due giorni fa annunciò a Vincenzo Mollica un grande scoop. Ci sarà Morgan, forse ci sarà, fingendo, tutti pensavano, forse era questa l'idea, ci sarebbe stato un piccolo video in cui Morgan, facendo la stessa taroccata di anno scorso, dicendo ci sarà Mina, poi Mina era in un vecchio videoclip in cui aveva 15 anni, mandato sotto la sigla via dicendo, aspettiamoci il videoclip di Morgan. Invece nemmeno questo, alla fine se la sono talmente fatta sotto per paura di tutte le associazioni delle gattare, non so che potessero protestare, non c'è stato. Ma la Claire ci ha fatto una cosa vieppiù scellerata. Ha letto il testo della canzone che doveva cantare Morgan a Sanremo come se leggesse, ne so, un frammento ritrovato in una rovina di un tempio classico che ci dà un brano di Alceo improvvisamente riapparso e ridonato all'umanità. A questo punto della scaletta delle nostre canzoni c'era Morgan. Avete seguito tantissime polemiche in questi giorni e volevo dire una cosa. Allora, io sono veramente lontana anni luce dal mondo della droga. La mia unica droga è la mia famiglia, il mio lavoro, un caffè macchiato caldo prima di andare in onda. Sono, devo dire, addirittura intollerante nei confronti di questo vizio, tanto più quando si trasforma in moda. Chi non ha carattere né amore per la vita. Sentite il testo, naturalmente il testo scritto da un autore, lei legge, leggerà sul gobbo, quindi totalmente insincera, anche sul cappuccino probabilmente. Sia impegnarsi in quelle che sono le proprie passioni, e per Morgan la passione è la musica, per questo volevo almeno farvi sentire la sua canzone. Poi i vertici della RAI hanno deciso diversamente, ma voglio almeno leggervi un passo. A chi stanno battendo le mani? A Morgan appassionato di musica? A Morgan pentito, drogato? Eccola, ecco, zitto, sentite. Allora ci faremo un canto. Un can, già questa parola ha una radice piuttosto inquieta. Ogni sera la nostra festa. Il nostro festino sarebbe. Come orchestra. Quando ormai mi credevo disperso, con stupore immenso, tutto ritorna per me ad avere un senso, o almeno si spera, esce la sera, buona la sera. Mario, è toccato dalla profondità del testo poetico letto dalla Clerici? Mario, pronto? Mi rivolgo a lei, volevo sapere pronto? Se ha avuto commozione nel sentire di cosa siamo stati urbati ieri sera. Sì, Mario, la sento. Pronto? Ecco, sono qua. Ecco, no, perché non la sentivo nel telefono. Adesso mi sento. No, assolutamente nessuna commozione, tantissima tristezza. Sembrava proprio che questa persona fosse già di partita. E poi comunque la Clerici stessa proprio si vedeva che, come ha detto lei, che leggeva sul gobbo e tutto quanto. Io dico, tanta gente continua sempre a dire che di Sanremo non ci si ricorda neanche più le canzoni, ma non ci si ricorda neanche più i cantanti, ci si ricordano solamente alcuni episodi, alcuni presentatori tipo Chiambretti in scarpe da tennis o Pippo Baudo quando ci fu l'episodio di Cavallo Pazzo. Finto. Oppure ci si ricorda dei dopo festival, quindi quando, non so, c'era per dire Renato Zero, Roberto D'Agostino. Andiamo indietro negli anni e di Sanremo l'unica frase giusta è Sanremo è Sanremo. Quindi, no, ma io non sono contro Sanremo. Sanremo guardi, è come per gli aztechi il ciclo solare, per cui scannavano un sacco di gente. Se si ferma Sanremo si ferma il mondo. Io temo molto, la profezia di Giacobbo si avvererebbe, nel 2012 finirebbe il mondo se finisse Sanremo. Quindi andiamo avanti, 800240024, aspetto fiducioso ancora degli aiutini per descrivere la meravigliosa serata di ieri. Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente. Credo nella mia cultura e nella mia religione, per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Io sento battere più forte il cuore di un'Italia sola. Allora, se mi fosse lecito dire una frase molto usata nelle mie contrade, ma che ormai è entrata talmente nel lessico comune che può essere pronunciabile anche in una radio rispettosa come questa. Se gli italiani dovessero mai sentirsi presi per il culo, veramente, profondamente, radicalmente, dovrebbero collocare la canzone cantata dall'erede Savoia Emanuele Filiberto, da pupo e da un tenore, al vertice di questa operazione. Emanuele Filiberto si è presentato con Pupo in questa vergognosa, mielosa, veramente irritante canzone in cui racconta il suo amore per il paese, ma in cui addirittura a un certo punto Pupo, vediamo se riesce l'ottimo Chiappini a alzarmi al punto giusto, rievoca come una ingiustizia totale l'esilio a cui il principino fu costretto. Ricordo quando ero bambino, viaggiavo con la fantasia, chiudevo gli occhi e immaginavo di stringerla fra le mie braccia. Tu non potevi ritornare, pur non avendo fatto niente, ma mai ti sei paragonato a chi ha sofferto veramente. Cioè, io non vorrei riaprire vicende dolorosissime e non ho assolutamente in questo momento lo stato d'animo e il peso, voglio essere leggero, per dire che i giudizi sulla storia del passato, su quello che hanno rappresentato i Savoia nella storia dei nostri ultimi 60-70 anni, non può essere liquidato da questa frase idiota: tu non potevi ritornare pur non avendo fatto niente. E se tornare significato andare a Sanremo a cantare queste enormi cavolate, probabilmente un'altra passeggiatina in giro per il mondo potrà farsela molto volentieri. Ma so che su questo probabilmente una mia amata e cara collega non sarà d'accordo. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno Intonti e buongiorno Chiappini. Marta Cagnola è l'inviata di Radio 24 al Festival di Sanremo. Io l'ho disturbata questa mattina pur sapendo che è stata tutta la notte indefessa a seguire il festival, a seguire anche ciò che c'è stato dopo il festival. E in particolare, Marta, rivelerò qui qualcosa che tu mi hai fatto giurare, non avrei mai rivelato. Sei stata a cena con Emanuele Filiberto finito il Festival di Sanremo. Non sono stata a cena, ancora peggio. Finito, no, non voglio saperlo. No, adesso dirò solo quello che si può dire in pubblico. Non puoi darti al nemico così. Vabbè, bisogna conoscerlo però. Quindi io se lo conosci lo eviti. Esatto. Allora, cosa è successo? Dopo Sanremo, seguito fino alla fine, sino spremuto fino all'ultima goccia, di solito i giornalisti vanno a cena oppure vanno a bere qualcosa, quell'ultimo bicchiere di vino che stronca definitivamente la serata. E tutto questo spesso accade in un luogo che, variamente sponsorizzato, si chiama ogni anno Casa Sanremo. Sì, terrificante. Ero con un'amica, stavamo chiacchierando ed è arrivato il principe. Da solo era lui? E il principe era accompagnato da un ufficio stampa, ma insomma assolutamente da solo, non con il grande dispiegamento di forze. E vi ha tacchinato subito? Subito. Ma solo voi due? Cioè erate le uniche donne o c'era una ampia scelta? Ha scelto voi perché? Ma in realtà è stato un po' un caso, perché noi eravamo sulla terrazza di questo luogo che si trova dentro il Palafiori a pochi passi dall'Ariston. Era una serata calda, immagino. Abbiamo chiesto di sedersi con noi e lui ha fatto. Giustamente. L'avete invitato voi, quindi? Lui è stato carino, noi non abbiamo perso l'occasione. Quando mai possiamo più dire di avere passato la serata di Sanremo con la star vera della serata? Beh, allora si è seduto a tavola con voi. Esatto, abbiamo bevuto quest'ultimo bicchiere di vino. Lui non conosceva, intanto sentite le campane di Sanremo, probabilmente. Che bello, che atmosfera. Io sono proprio a un passo dal teatro Ariston sotto il diluvio. Sono l'unica che non ha l'ombrello, ma no, riparati. Senti, ma c'è ancora la passerella davanti a quel teatrino lì di Sanremo, che poi in televisione sembra chissà che, ma sembra un cinemino dei preti di periferia, ecco. È un delizioso, normalissimo cinema. Sì, c'è la passerella. No, adesso non cambiare argomento. Allora senti Marta, siccome io sono costretto a dare la linea, come tu sai, alle informazioni della borsa, trova un piccolo riparo per salvare le tue tenere carni come dei gattini di Bigazzi dallo scrosciar della pioggia. Melog 2.0. Parliamo un po' della tua formazione culturale, insomma la tua carriera scolastica non è stata esaltante, no? Sei bocciature tra elementari e medie, ma no? È sì, così. Perché ridono? Perché ridete? Non lo so, la verità. Perché... Non è questo il tuo unico record, perché tu dici sempre nei tuoi aforismi che sei il primo che ha scritto più libri di quanti ne abbia letti. È vero, è la verità? Ne ho scritti due, ne ho letti solo uno. Adesso mi tocca rileggere il secondo, sempre mio però, perché di leggere no... Non è che so leggere tanto bene, anche prima mi sono impallinato un attimo a leggere lì, però non è che sono un fenomeno. Però, va bene. Però sei un fenomeno quando sei sul campo di calcio, devo dirti la verità, grazie. Sei un vero fenomeno. Questo grazie. Non ho strumenti tecnici e culturali per giudicare se sia veramente un fenomeno sul campo da calcio, questo signore si chiama Antonio Cassano e la cui esistenza ho appreso soltanto ieri sera. È un famoso giocatore, già mi scrivono i cattivelli su Facebook e lo stanno pompando perché deve andare in nazionale. Non so se è vero o non sia vero, ma noi il bar dello sport è sempre aperto. Vi leggo qualche commento perché è impazzita la voglia degli italiani di commentare Sanremo. Il vero programma da fare dopo Sanremo sarebbe lasciare libera apertura di commento da parte di chiunque abbia visto o non abbia visto Sanremo. Io non l'ho visto, ve ne sto parlando da circa mezz'ora. Pensate un po' che strumenti ci vogliono di attenzione e di osservazione per parlare di Sanremo. Quindi è il miglior argomento per parlarne al bar, per parlarne quando si va a fare la spesa, nella pausa a caffè. Stefi dice: ma poi Cassano, che brutta immagine, non sa parlare, non sa leggere. Uniche parole profuse, assolutamente sì, assolutamente no. E alla fine è andato a riprendere. L'ho andato a riprendere la fidanzata, come si fa un interdetto, penoso, mi spiace dirlo, ma la Clerici mi ha delusa. Non so se aspettasse su Stefi dalla Clerici. Aggiungo, Cassano aveva proprio bisogno a Sanremo per farsi strada verso la nazionale, ecco, tutti mi dicono questo. Siparetto terribile, dice Danilo, con il calciatore Cassano, che non sapevo che faccia avesse, ora lo so, tributo al somaro, 6 bocciature tra medie elementari, e ce la fa, nel senso che fa i soldi. La Clerici dice che la sua droga è il lavoro. Se non sono messaggi deplorevoli questi, quindi che non sono del tutto idioti gli ascoltatori che mi seguono e scrivono sulla rete, dicono che in effetti un festival all'insegna del recupero, delle diversità, delle uscite dalla regola, delle dipendenze di sostanze psicotrope, in realtà sta facendo dei siparietti in cui viene celebrata l'idiozia, l'ignoranza, la più crassa e fiera volontà di persistere nel proprio stato di ignoranza. Tanto faccio il calciatore, posso essere una bestia, anzi il fiore che mi mette l'occhiello è essere una bestia, di non saper nemmeno parlare la mia lingua, di non aver letto nemmeno un libro, di essere un profondo animale, e vi faccio questo doppio salto mortale sulla testa. Marta Cagnola, ci eravamo interrotti sul più bello, scusami, poi ti lascio ai tuoi lavori, ma devi dirci com'è andata a finire la serata. Eravate un terzetto diabolico, te, l'amica, immagino collega, e il principe, seduti al ristorante, ebri di vino e desiderosi di finire bene la serata. Questo l'ho aggiunto io. Insomma, questo l'ho aggiunto tu, che la serata è finita in maniera molto placida e pacifica, siamo tutti tornati a nanna verso le 4 e qualcosa del mattino. Beh, fino alle 4, diciamo, fino alle 4 cosa ha fatto? Ci ha provato disperatamente in maniera alternata con tutte e due? Ma non solo, diciamo che gli abbiamo anche dovuto un po' spiegare il regolamento del festival, del quale lui era assolutamente... Le giornaliste non possono darla ai cantanti. Non lo sapeva che ci sarebbero stati i ripescaggi, non sapeva che avrebbe dovuto ricantare giovedì. Ah, non sapeva manco che... Figurati, l'hanno graziato senz'altro, dopo che gli hanno abbonato anche il diritto d'esilio, gli abboneranno anche l'orripilanza di presentazione al festival. Quindi poi se lo rivedremo senz'altro, che sarà ripescato. Anche perché poi venerdì lui dovrà cantare con Marcello Lippi, altro talento canoro, immagino. Lui però ha detto, certo, io posso cantare con Lippi venerdì, ma non giovedì, perché io mica sono abbinato a una Belen Rodriguez qualsiasi, perché noi abbiamo... un uomo che sta allenando l'Italia per far vincere il campionato del mondo, quindi insomma un principe alquanto sbottonato, l'abbiamo riso tutta serata perché non sapevamo come chiamarlo. E come si faceva a chiamare? Lui è assolutamente, tutti lo chiamano Emanuele in realtà, però a noi ci veniva da ridere sia chiamarlo Emanuele sia chiamarlo principe. Maestà. Ci veniva molto da ridere. Io l'avrei chiamato Maestà. Maestà, e oggi quando lo incontro gli do del tu, lo chiamo maestà. Vi siete scambiati i telefoni, sì? No, non ci siamo scambiati. Senti, telefoni, della sua canzone orribile, cosa ha detto? Cioè, chi è il vero autore di questo parto? Chi è il cervello che ha messo insieme queste scelleratezze? Lui ha scritto il testo. Ma figurati, lui, ma sarà capace a scrivere il suo nome? Se no, ha ribadito che la poesia l'ha scritta lui. E dov'è la poesia? No, la poesia non l'ho vista. È il testo della canzone. Quella sarebbe poesia, capito? Esatto, però devo dire la verità, noi eravamo tutti convinti, avendo fatto poi loro le prove a porte chiuse, eravamo tutti convinti perché lui aveva detto che non sapendo cantare avrebbe recitato. Cioè sembra l'inno dei Boy Scout, con rispetto dei Boy Scout, sembra l'inno di, che ne so, delle giovani marmotte. Io credo ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto in un paese più normale. Cioè parla lui. Ma non lo so. Devo dire, un po' ci credo anch'io, ma non lo andrei a cantare a Sanremo, non in quel modo, sicuramente. Sì, non so come dire. Tu ti chiami Cagnola, anche se un nobile nome di nobilissimo lignaggio. Cioè, lui ha una responsabilità quando dice queste cose, non può sfuggirla, capito? Eh, Devo dire che, non lo so, lui ha confessato candidamente che per lui, ma grazie al cielo, l'avventura con la canzone finisce comunque venerdì. Ha detto che sua moglie l'ha chiamato molto contenta. Lui era molto agitato prima di entrare, di salire sul teatro, e Clotilde l'ha chiamato dicendogi: ma che ti frega tanto, tu sei l'unico che non deve cantare. Io faccio solo una riflessione, che sembra una riflessione fatta proprio da, dal più triviale dei pensieri retrogradi, ma se volesse dare questo grande esempio di vera maestà e di verace rappresentare l'ideale che lui dice, non starebbe in giro a fare il cantante, il ballerino, il cazzone in ogni programma televisivo? Si metterebbe a lavorare, farebbe vedere che la dignità e la forza di un uomo di sangue reale, che in circostanze particolari è capace di fare quello che fa chiunque, vedrebbe la zappa, la vanga, il tornio, qualunque cosa sia possibile, si manterrebbe la vita. Quello sarebbe un grande esempio, altro che la canzone. Invece va a fare Ballando con le Stelle. Ci aveva provato con la politica. Sì, vabbè, ma gli hanno fatto un fischio che ancora ho le orecchie lese nei miei timpani, capito? Giustamente, cioè, a tutto c'è un limite, ogni tanto si sveglia anche il torpore degli italiani. Marta, t'abbraccio, ti saluto, ti ringrazio Io tantissimo. Vorrei solo sapere cosa un tuo commento di quando ti sei risvegliato verso mezzanotte, però. Adesso arriva. Ecco, perché toccherò, io so che, insomma, la tua natura più sensibile con quello che ho provato a mezzanotte. Ascolta in silenzio. Ascolta in silenzio, come dicono quei bei programmi televisivi con i numeri sotto. Ascolta in silenzio. Fernando. Buongiorno. Eccomi qua. L'ascolto in silenzio. Ma in silenzio quasi. Ecco, la cosa più bella che poteva fare Cassano, stare zitto. Voglio dire che lo paghiamo con i soldi della RAI. Cioè con i nostri, scusi. Tanti calciatori che sanno parlare molto meglio di lui, potevano scegliere qualcosa di meglio. Insomma, guardi, l'intelligenza è proprio questa, fare l'icona dell'ignoranza. Esatto, ma guardi, c'è diventa ricerca... sublime. Quando un ignorante a quel punto è sublime, è un'opera d'arte vivente, lo portano in giro, come il mongoloide che misero in una biennale di Venezia. Fu un'operazione estremamente trasgressiva, però ancora se ne parla, anche sfuscellerata. Mettere Cassano a Sanremo ha esattamente lo stesso valore di arte performativa. Ma è una ricerca dissennata, voglio dire, non è presentabile, non è godibile, insomma. Vabbè, allora non è godibile, ha detto, e adesso la faccio godere. Tu come pensi che finirà, da miliardario o da disgraziato? Beh, ringraziando il destino, il fato, il Signore, ringraziamo qualcuno, perché sicuramente qualcuno dobbiamo ringraziare. Finirò la mia vita, fra 100 anni naturalmente, ecco. Con un pochino di soldini. Prima non c'avevo tanti soldi, anzi non c'avevo nulla. Poi ringraziando le mie doti che mi ritrovo, ho fatto un bel po' di soldini e per questo sono contento. E a me lui piace proprio per questo, perché è uno di noi, è uno del popolo, è uno che si è fatto da solo. Io non so se sia vero, ieri un giornale cattivo ha detto la Clerici ha 41 appartamenti sparpagliati in tutta Italia. Sarà sicuramente una cattiveria, quelle indiscrezioni che mettono per invidia. Però uno del popolo come noi, aspettiamo un attimo a dirlo. Perché sorride? No, sorrido perché pensavo, siccome lei prima ha citato il fatto del gatto, del cuoco. Sì, si attento perché una mannaia... Sì. Una motosega ha già colpito le ginocchia innocenti di un mio collega. Una mannaia è vicino al mio collo, quindi i gatti non si toccano. No, allora, se posso le racconto un episodio brevissimo. Sì, ma non dica che mangia animali da grembo, ecco, questo, cioè, magari no. No, io non li mangio. Hanno tentato di farmelo mangiare tanti anni fa, è a Vicenza. No, questa è una vecchia leggenda metropolitana, è brutto, è cattivo. Beh, purtroppo io devo dire che era Vicenza, era un mio amico, era ospite e in una vasca del bagno ho trovato un animale scoiato. Ma è uno scherzo, guardi, io ho molte amiche carissime di Vicenza, è uno scherzo che fanno, siccome c'è questa leggenda, diceria, probabilmente l'avranno fatto durante la guerra, mangiavano i topi, i poveri topi perché non le fanno tenerezza, pensi Topolino, Mickey Mouse, Geronimo Stilton, Ratatouille, il topino e Ratatouille, pensi, in guerra mia nonna ci si mangiavano i topi, quindi succede di tutto, qualcuno si mangia anche i figli, però a Vicenza fanno questo scherzo, lo dico per sdrammatizzare, fanno venire uno da fuori, mettono un coniglio scuoiato e anche i poveri coniglietti, fratello coniglietto che le ha fatto? Sì, somigliano. Sì. Lo mettono nella vasca, sceglie il gatto e lui si spaventa, ma è uno scherzo, nessuno lo farebbe mai e nessuno dovrà farlo mai. Cambiamo argomento che già sento stridere i denti sulle mie ginocchia. Giulia. Sì, pronto? Eccola qua. Buongiorno, no, niente, io ieri sera, combinazione, onestamente non sono una grande spettatrice del Festival di Sanremo, non perché mi senta parte di un'elite. Al punto, che ha fatto? Perché non mi piacciono tanto le canzoni sentite la prima volta, così un attimo non mi soddisfano. Però, la seconda soddisfa di più di solito, andiamo avanti. combinazione ho assistito a questa intervista a Cassano. Il messaggio che passa da un'intervista del genere è devastante per i giovani. Io sono un insegnante che adora il proprio mestiere e credo che ai ragazzi, oltre che la mia disciplina, debba cercare di far capire quanto è importante conoscere per affermarsi nella società nel senso positivo, che non vuol dire sempre riempirsi le tasche di soldi. Ha ragione, questo è sacrosanto, sono contento che lo dica un insegnante. Onestamente, io insegno matematica, che è già una materia difficile, però cerco di far capire ai ragazzi che al di là di quello che io posso insegnare della mia materia, che ovviamente devo conoscere, devo anche far capire loro che l'affermazione vuol dire avere gli occhi aperti sul mondo a vasto raggio, no? A 360 gradi. Quindi lei è d'accordo? Che ti dice, sì. Che ha letto due libri, no, un libro, e ne ha scritti due, ovviamente non li avrà scritti lui. È un paradosso, è chiaro. Se ne ha letto uno solo, che è il suo libro, il suo primo libro, adesso deve leggere ancora il secondo. Cioè passano dei messaggi che mi fanno rabbrividire. Potrebbe aver scritto il primo, letto il primo che ha scritto e poi scritto il secondo, forse questa è la sequenza. Esatto, questa è una sequenza logica da brivido, no? Lei è matematica. Ecco, ora io dico, ma nel suo universo ci sono soltanto due libri praticamente. Pubblico, vede, perché se lo fa una TV privata, non so, ne potrei citare tantissime, ma il servizio pubblico, Rai 1, il canale ammiraglio, no, della Rai. Sì, adesso glielo do fra un po' il canale, gli faccio sentire, ecco, fra un po'. Ma ci può propinare una cosa del genere? Cioè, questa commistione di ruoli, le cantanti che diventano politiche, le attrici... Però devo lasciarla perché devo dare la linea, scusi. Io la trovo devastante. La devo segare, professoressa, è brutto, poi mi duole segare una professoressa. Devo dare la linea al traffico, poi dico, guardi, il messaggio espresso da Cassano non è diverso dalla filosofia di vita, dalla Weltanschauung dei dirigenti, dei conduttori, dei funzionari, dei portaborse che poi hanno generato, pensato e immaginato questo festival. E probabilmente non è molto differente dalla visione della vita di coloro che lo guardano. Melog 2.0. Questo è un momento, come dire, ad alto contenuto erotico. Tu conosci il burlesque? Non ho la minima idea di chi si parla. Allora, il burlesque è un'arte, l'arte di sedurre, con ironia, togliendosi i vestiti. Ti faccio vedere, mi tieni i cartoncini un attimo? Sì, sì, assolutamente sì. Duccio Forzano, ho nascosto qui una giarrettiera. Aspetta che cado. Sì, sì, mantieniti. Ah, hai capito? Ammazza. Adesso non è proprio così, insomma, però. E sai chi è la regina del burlesque? No. No, assolutamente no. Guarda, lei è conosciuta nel mondo come appunto la regina del burlesque, rivendica il glamour come stile di vita. Senza le sue calze di seta e il suo rossetto rosso fuoco dice di sentirsi nuda. Se lo dice lei, ecco. Crediamoci. Celebre appunto la sua performance in cui si è presentata sul palco indossando nient'altro che diamanti per il valore di 3 milioni di dollari, mica uno scherzo. E lei la star dello spogliarello ironico e seducente, la famosa sexy pin-up. È con noi Dita Von Teese. Questo è stato il momento clou su cui mi provocò Marta Cagnola. Dita Von Teese, la regina del burlesque, si è presentata sul palco di Sanremo. Questa signora, introdotta da un tentativo goffissimo di imitazione della Clerici, che traballando su quei tacchi altissimi, stretta nel suo bustino taglia 42, che è sotto le sue reali misure di almeno 3-4 taglie, ha cercato di fare un gesto sexy appoggiandosi su Cassano che sta vicino a lei. Cioè doveva sfilarsi una giarrettiera. In realtà il gesto è stato talmente goffo che si è infilata la manona sotto le gonnone, ha ravanato tra le coscione, ha tirato fuori questa sorta di straccio rosso il cui diametro era di almeno 70 centimetri e l'ha tenuto per tutto il tempo dell'esibizione della regina del burlesque per le mani. Chi entrava nell'inquadratura senza aver visto lo sfilamento della giarrettiera pensava che avesse, non so, uno straccio da spolvero in mano o le mutande improvvisamente cadute o qualcosa del genere, quindi era totalmente antitetico ad ogni erotismo. Ma parliamo un attimo della Von Teese. È una signora molto ammirevole, dalle forme splendide che poi ai signori di una certa età come me ricordano i fasti delle gioventù lontane e degli ardori ormai ahimè sopiti. È meravigliosa, balla, si spoglia lentamente, polposissima, carnosissima, entra dentro un grande bicchierone di champagne, si spreme un'olivona di gomma piuma e si schizza tutta addosso con l'olivona. Insomma, è quella che nelle mie orrende, oscene e brutali contrade chiamano ciccia da pippa. Non lo dirò mai più. Ma cosa c'entrava a quel punto dentro il festival di Sanremo? Chissà se Susanna me lo riesce a dire. Susanna, buongiorno. Ciao Nicoletti, io sono come, cioè non sono come te che ieri sera si è messa davanti al Festival di Sanremo, però mi hai raccontato benissimo ciò che è successo e ti devo dire una cosa. Te la dico una volta, poi non te la dico più. Sono anch'io umbra. Ah, bene. E di Perugia e quindi afferrato fino in fondo il senso profondo di quella mia innominabile frase. Esatto. Ecco, non ma cosa c'entra quella carnicina lì a mezzanotte dentro il Festival di Sanremo, che ha la sua dignità e il suo diritto di esprimersi, ma nel Festival degli Italiani, nello spettacolo delle famiglie, in questa, no, mi dica bravo, sennò sembra, capito, che me la sbrodolo addosso. Guarda, ti volevo dire una cosa soltanto, che i tuoi, dimmela, mi cocca, dai, da un'umbrietta così piccola è uscito una testolina come, sì, ma amore, parlami signora, gentilmente, vabbè, adesso la seguo, guardi, vabbè, sono costretto a fare qualcosa che va contro la mia carne, me l'ha proprio costretto. Fabrizio, vediamo se lei riesce ad aggiungere qualcosa, visto che la mia conterranea non c'è riuscita. Fabrizio. Allora, caro Nicoletti, io avevo fatto una mia classifica personale partendo dal 10 allo 0 e avevo messo Dita Fontis con lo 0. Sì, ma lo sa che ha dato fastidio anche a me? E guardi, sono un maiale radicale. Mi ha dato fastidio vederla quell'ora, non c'entrava nulla. Non, è fuori posto. Come dire, una cosa buona, ma adesso che c'entra? Ho preso il caffè, mi ridate la zuppa di fagioli, non c'entra nulla. Io credo che l'inopportunità degli ospiti di ieri siano stati fondamentalmente lei e Cassano, che in un tentativo disperato di rientrare in nazionale ha cercato anche questo escamotage. Ah, è vero, allora è vero questa cosa, non lo sapevo. In un festival di musica dove io alla musica ho dato 8, perché secondo me sono state molto belle le canzoni, con Cristicchi e Ruggeri un palmo sopra gli altri, l'orchestra molto molto molto professionale, molto bella, mettiamo un velo pietoso sul direttore con quei capelli improbabili, forse l'assenza di Morgan giustificava una candidatura. Sì, era il sosia di Morgan, era la controfigura, esatto, di Morgan. Praticamente sì, e il 10 l'ho dato a chi è riuscito a vedere. Quando stramazza Morgan entra in gioco lui. Esatto, un bel 9 l'ho dato anche a Morgan che non si è presentato. Ho voluto dare una sufficienza a Laurenti Bonolis, questo inovito top peppino del XXI secolo. Per il resto mi sono trovato sinceramente molto in imbarazzo nel vedere la mummia Clerici che tentava, poverina, in tutti i modi di nascondere i suoi rotoli. Faccia tanta tenerezza, quando si è sfilata la giarrettierona ho avuto un palpito. Ma la cosa più pietosa è stata la sua scenetta che ha fatto con la bacchetta del, sì, maestro. Ha provato anche a ballare, ha visto che ha provato a fare un saltellino e per poco si schianta. Io credo che forse anche diciamo ai tempi migliori di De Sica e Boldi avrebbero sicuramente anche loro. Non so, ma quando si è a rischio osteoporosi uno deve stare anche attento a fare queste cose. Antonia, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Andiamo al punto, veloce, che dobbiamo chiudere. Veloce, sì, perché dobbiamo chiudere. Intanto voglio dire che sono sempre stata una sua attenta radioascoltatrice, logicamente. Ma parli di Sanremo adesso, poi magari ce lo, sì, diciamo, ecco, la chiamo, vabbè, a casa. Diciamo, allora, la sua diagnosi del cadavere Sanremo è calza a pennello e i rimedi per tenere su questo cadavere sono stati più pietosi della cura in sé, nel senso. La Clerici, quale messaggio ha voluto dare? Non c'è mica capito. Ma nessuno chiede di dare messaggio, onestamente, in questi casi. Però a chi l'ha ascoltato? No, però lei ha ragione, perché è partita con una cosa ipocritissima del povero Morgan, il drogato, esatto, poverino. E poi è stata una serie di sconcezze, lo dice uno che alle sconcezze ci naviga dentro. Concludere con il burlesque che sinceramente con la canzone di Sanremo non c'entrava. Guarda che è un bello spettacolo, a me diverte molto. Diverte un po' meno da quando è diventata una moda, da quando tutte le parrucchiere di paese il fine settimana si mettono le giarrettiere e vanno in giro per i clubini. Comunque è una cosa che ha una sua dignità. Era di una pietà veramente estrema. Ma quello che voglio anche aggiungere, che poi tutta la gran cassa che gira intorno a questo cadavere è una cosa ancora peggio, se noi pensiamo a Costanzo, hanno riesumato Costanzo bollito e bollato da Mediaset, è pronto a fare la sua flebo a questa Rai, sempre più in affanno, e purtroppo cappello paga. Se vabbè signora, pubblico... purtroppo non vorrei ripetere quel gesto che a me fa così male di far partire la motosega, cito soltanto Giovanni, che vorrebbe mettere la bandiera italiana a mezz'asta per lutto nazionale, ma siamo già a mezz'asta da tanto tempo, quindi è inutile, sarà un motivo in più per confermare la nostra indecorosa situazione. Ringrazio Fabrizio Intonti, ringrazio Alessandro Chiappini e ci sentiamo forse domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 800 28 11 11. Melog va in replica questa sera alle 22:00.